nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Buona domenica, ben trovati a Nessuna è Perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. Vi è mai capitato di sentirvi un po' fuori posto nel vostro luogo di lavoro, nell'ambiente in cui avete vissuto professionalmente per molti anni o anche non per molti anni, ma di guardarvi intorno e di non riconoscere più le facce che vi circondano, perché semplicemente c'è stato un ricambio generazionale? Ecco, questa espressione, ricambio generazionale, vi è nota, vi mette inquietudine o vi piace, vi dà energia? Perché per molti e per molte, perché per le donne può essere un problema ulteriore, il sentirsi un po' pesce fuor d'acqua perché sono cambiati i colleghi, sono cambiate le facce e stanno cambiando molto rapidamente le competenze, ecco, non sempre è motivo di energia e di curiosità per il futuro, ma può essere anche motivo di insicurezza, di questioni di mettersi un po' in gioco e di chiedersi, beh, ma mi vorranno ancora? Sono ancora utile? Il tempo della riflessione ce lo prendiamo un po' questa domenica mattina. Sapete che l'aumento delle aspettative di vita cambia molto anche le risorse umane nelle aziende. Si trovano a lavorare oggi fianco a fianco over 60, quarantenni e under 30, cioè tre generazioni diverse: quella dei baby boomers, quella nata tra il 43 e il 1960, poi la generazione X, quella nata fino al 1980, e poi i millennials, i figli degli anni 80, quelli che si definiscono nativi digitali, che hanno vissuto la globalizzazione, la crisi economica, che hanno un senso della precarietà del lavoro, mentre le generazioni che l'hanno preceduta, e soprattutto la generazione dei baby boomers, la mia generazione, questo senso di precarietà a 20 anni non ce l'aveva. Quali difficoltà arrivano in un'azienda quando ventenni, trentenni e sessantenni devono lavorare fianco a fianco? Ne parliamo con una persona che ha dedicato del tempo a questo argomento, delle riflessioni, è stata al centro di tante polemiche e di molti dibattiti. Abbiamo avuto a cuore l'equità. Sappiamo bene che richiediamo sacrifici, ma speriamo che questi sacrifici siano compresi proprio in nome di quella possibilità di crescita che si accompagnerà a un rafforzamento del lavoro, senza il quale e la quale anche questa riforma del sistema previdenziale rischia di essere vanificata in un impoverimento collettivo. Ma questo impoverimento collettivo è esattamente il rischio che questa manovra vuole evitare. C'è un'ultima cosa che forse per molti è la più dolorosa. Questa è la riforma pensionistica con questi principi. E poi ci sono i vincoli finanziari. E i vincoli finanziari oggi sono severissimi. Allora, nessuna riforma pensionistica dà, nell'anno successivo alla sua introduzione o nell'anno della sua introduzione, risparmi, perché il sistema pensionistico è un meccanismo lungo tra le generazioni. E allora abbiamo dovuto, e questo sì che ci è costato anche psicologicamente, chiedere un sacrificio. Credo che stesse per dire sacrificio, come avete capito. Posso interpretare il sacrificio così efficacemente trasmesso dal ministro Fornero? riguarda la deindicizzazione delle pensioni. Abbiamo dovuto stabilire la deindicizzazione, quindi il venir meno della indicizzazione all'inflazione per le pensioni. Tuttavia, salvaguardando le pensioni minime, per le quali abbiamo potuto provvedere finanziariamente una... Correggimi però, commuoviti ma correggimi. Avete capito di che si tratta? Era un momento drammatico della vita di questo paese e noi torniamo a parlare di quel momento e del nostro presente con la Sunday Girl di questa domenica, tra pochi minuti. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24 e questo lo sapete, è il momento della nostra Sunday Girl. E la Sunday Girl di questa domenica è una signora molto tosta, ve lo dico, la conosco e l'avete vista in azione. La Sunday Girl di questa domenica è un'economista, un'accademica e l'ex ministro del welfare del governo Monti, insomma Elsa Fornero, buona domenica. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti. Allora, professoressa, il titolo della nostra trasmissione è Nessuna è perfetta e la riforma alla quale è associato il suo nome forse perfetta non era, è stata così criticata e anche dibattuta e ancora oggi al centro del dibattito politico, però insomma è una riforma che poi in Europa ci ha fatto prendere credibilità. Si parla molto... Prego, sì. Sì, no, mi piace molto questo titolo, Nessuna è perfetta, e sicuramente io non mi sono mai sentita perfetta, come molte donne ho sempre avuto mille dubbi su tutte le cose, perché questo è tipico delle donne, gli uomini ostentano sempre molta più sicurezza, anche quando li si vede magari inadeguati al ruolo che ricoprono o ai compiti a cui dovrebbero temperare. Quindi sicuramente non si è perfetti, ma proprio perché non si è perfetti bisogna darsi una mano. E quello che a me è mancato è proprio questa mano, cioè il fatto di dire va bene, hai un compito difficile, l'hai dovuto fare in un momento drammatico per il paese. Ti diamo una mano anche a correggere le cose che non vanno. Invece questa consapevolezza di necessità di cambiamento e anche di necessità di rinunciare a qualche cosa che possiamo tranquillamente chiamare un privilegio non c'è stata e ha determinato poi una resistenza. Quella resistenza ha determinato, diciamo così, una facile via d'uscita per tutti nel colpevolizzare qualcuno. Cioè quella riforma delle pensioni andava fatta, è stato semplice dire vabbè è la riforma Fornero e se la veda lei. Tra l'altro se posso aggiungere, sì. Quando viene elogiata in Europa allora è la riforma Monti. Questo capita molto spesso in tutte le aziende e lei lo sa anche nel mondo accademico, cioè magari una giovane ricercatrice brillantissima, ma poi il merito di quella ricerca se lo prende il barone. Professoressa Fornero, stiamo sempre sul tema delle pensioni e che è un po' anche la chiave di questa puntata. Il problema è come lasciare che la gente che ha più di 50 anni lavori, perché spesso ha più che mai bisogno di lavorare, ma togliendo il tappo che in questi anni ha bloccato le assunzioni dei giovani. Dice il presidente dell'INPS, Tito Boeri, che la vera partita si gioca nelle stanze della Commissione di Bruxelles e che se vogliamo introdurre il pensionamento flessibile dobbiamo cambiare il patto di stabilità in Europa. È così? Guardi, posso solo ricordare che c'è stato di recente un rapporto della Commissione europea che parla della difficile sostenibilità della finanza pubblica italiana, tradotto in termini per il pubblico, le finanze dello Stato, di tutte le istituzioni pubbliche italiane sono ancora aggravate da un debito eccessivo. Questo ci espone sempre alle intemperie, siamo sempre in balia di un mare molto tempestoso che può trasformarsi in un mare ancora più in burrasca e quindi sbatterci contro una scogliera. La stessa Commissione dice che una delle condizioni per una maggiore sostenibilità e il mantenimento delle scadenze delle riforme pensionistiche. Ora bisogna spiegarlo bene agli italiani, che è quello forse il mio rammarico maggiore per il periodo di ministro, è l'essere anche stata tenuta lontana dagli italiani. Non è facile per un ministro raggiungere le persone, ma nel mio caso diciamo che i partiti non volevano che io andassi a parlare con i lavoratori direttamente, mi dicevano no, lo facciamo noi, dobbiamo farlo noi sindacalisti. E poi cosa vuol dire i politici? Chi è che voleva prendere questo compito? A parte, immagino, il presidente del Consiglio dell'epoca, Monti, che era lui che parlava in prima persona. E chi altro? Sì, ma non era, adesso voglio dire, per esempio, ricordo un episodio che venne anche alla cronaca, e cioè il PD fa tutti gli anni le feste dell'unità, sì. Io fui l'unico ministro non invitato e quando qualcuno lo fece notare dissero per ragioni di sicurezza, però io per parte mia tutte le volte che sono stata invitata da cittadini, da lavoratori, ci sono andata e ho notato sempre una cosa importantissima, quel darsi la mano di cui si parlava all'inizio. I lavoratori lo comprendono benissimo e allora anche se non sono magari d'accordo con quello che hai fatto, però capiscono, mentre i partiti vogliono che le persone capiscano una loro verità. Cioè, manipolata, diciamo così. Abbastanza. E quindi nel nostro caso, per esempio, il fatto di dire la riforma è stata fatta in tempi brevissimi, adesso miglioriamola insieme. Ora, c'è una cosa che si è sempre detto in Italia e che rende sospettosa la Commissione europea, e cioè mandiamo in pensione le persone così facciamo lavoro per i giovani. Sì, questo è il tema. Questa ricetta non ha funzionato nel nostro paese. Noi abbiamo perso il lavoro per gli anziani, cioè dico lavoratori anziani, quelli che hanno 54, 55, 56 anni, ai quali abbiamo dedicato risorse perché abbiamo usato la cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga alla mobilità, ma nessuna risorsa per aiutarli a trovare un lavoro. Ora io conosco, ho conosciuto anche in questi anni persone che a quell'età vogliono lavorare, non vogliono un'uscita anticipata perché sono pieni di energie, pieni di idee. Poi certo ci sono quelli che fanno un lavoro durissimo, faticoso. Certo, ma quello è un altro discorso. Il punto è spesso una persona di 56 anni non solo vuole lavorare ma ha bisogno di lavorare, però così facendo, si dice, non si crea quel posto che dovrebbe andare al trentenne. Non se ne esce da questo allora, professoressa? Se ne esce cambiando totalmente logica. Non si deve adottare la logica del io che sono donna, lavoro, sottraggo lavoro a un maschio. Questo noi l'abbiamo adottato per tanti anni. Io sono anziano, sottraggo lavoro a un giovane. Perché questo fa pensare che ci sia una quantità fissa di posti di lavoro. Sì. E allora se lavoro io lo tolgo a un altro. No, noi dobbiamo domandarci come bisogna fare per avere una quantità di posti di lavoro che permetta ai giovani di lavorare, alle donne di lavorare e anche ai lavoratori anziani in buona salute di lavorare. Quindi creare posti nuovi, lavori nuovi, certo, inventarsi lavori la nuovi. Logica andando sulla sullo stimolo al lavoro, all'occupazione, anche magari a occupazione, oggi si parla di nuovo di lavoro a domicilio, si parla di lavoro part time, cioè noi dobbiamo acconsentire un po' di flessibilità anche nel lavoro, l'abbiamo anche fatto, non vuol dire precarietà, che il modo italiano di declinare la flessibilità sul lavoro è sempre poi, cominci con la flessibilità e vai a finire nella precarietà più nera, che è quella della quale soffrono i nostri ragazzi. I nostri ragazzi. Senta, professoressa, un'ultima domanda. Si parla molto di pensioni di reversibilità. Noi, cioè, è un crinale molto molto delicato, perché l'Italia è un paese di anziani e di anziane. Assolutamente. Se si lavora sulla pensione di reversibilità, diciamo, spesso sono le donne che sopravvivono al marito, e quei 400 euro che gli arrivano dalla pensione del marito costituiscono spesso la quantità di denaro che consente all'anziana di avere una badante. Quindi il crinale è delicatissimo. Che cosa farebbe lei? Ma intanto io prendo atto che il governo ha detto che non interverrà su questo tema. In secondo luogo devo dire che ci sono due ostacoli. Il primo è che a me sembra che intervenire sulle pensioni di reversibilità voglia dire rinunciare a intervenire sulle pensioni ancora troppo alte di certuni che sono andati in pensione con una pensione che è un multiplo elevato di quello che hanno pagato. E questo lei sa che c'è un tema delicato di Corte Costituzionale, però ci sono ancora molti privilegi. Noi avevamo introdotto il contributo di solidarietà, chiamiamolo come vogliamo, ma prima di andare a toccare le reversibilità, quello secondo me andrebbe fatto. La seconda cosa è che noi andiamo verso il contributivo. Nel calcolo della pensione contributiva e nel calcolo dei contributi io verso anche per una reversibilità. Quindi questo è un allontanamento, non succedeva con retributivo, ma questo purtroppo è il passato. Ma andare e dire che lo facciamo solo sulle pensioni nuove che sono più contributive, a me pare un controsenso. È anche un po' un'ingiustizia. Perché allora è una tassazione vera quella, perché allora solo sulle pensioni, cioè io pago per la reversibilità e allora poi me la devi lasciare. E allora me la devi lasciare. Devi anche abbassare i contributi. Certo. Grazie professoressa Elsa Fornero, la nostra Sunday Girl di questa domenica. Buona domenica a lei e grazie a presto. Grazie a lei e a tutti e speriamo in un'Italia migliore. Certo, lo speriamo davvero, grazie. Grazie. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag Autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, Container, con Massimo De Donato. Digital Radio Flash. Flash. Ciao, sono Max. Ma è vero che la Digital Radio si sente perfettamente anche mentre guida in autostrada? Sì, perché è un sistema nuovo che migliora l'esperienza d'ascolto con una qualità dell'audio estremamente avanzata. E puoi ascoltare la tua radio in Digital Radio già sul 70% della rete autostradale. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Nessuna è perfetta. Ed è il momento della nostra lettera, il dubbio, il problema posto da ascoltatrici, e io vi ricordo che potete scriverci e raccontare quali sono i vostri problemi, le vostre dubbi, le vostre curiosità nel campo del lavoro. Scrivete all'indirizzo mail nessuna è perfetta @radio24.it. Allora, la nostra ascoltatrice questa volta ha un problema generazionale. Ho 53 anni e da 30 anni lavoro nella stessa azienda. Ho avuto molte soddisfazioni e molti riconoscimenti. Sono orgogliosa di ciò che ho fatto. Ultimamente, però, guardandomi attorno, avverto un senso di inadeguatezza. L'ambiente è cambiato. Tanti colleghi storici hanno lasciato posto a volti nuovi e giovani. Questo è un fattore senz'altro positivo, largo ai giovani. Il punto è che mi rendo conto di essere vista da questi ultimi con diffidenza, come se appartenessi ad un altro mondo dal quale loro si sentono distanti. Non capiscono che il mio desiderio sarebbe quello di condividere con loro le mie esperienze e in qualche modo trasferire loro alcune delle competenze e dei trucchi che ho imparato in tanti anni di lavoro. Vittoria. Gli ospiti che ci aiutano in questo dilemma generazionale, che credo riguardi tanti e tanti, non soltanto cinquantenni, credo che talvolta la possibilità di scambiare o non scambiare esperienze tra generazioni diverse scatti proprio anche soltanto con la differenza di 10 anni. Gli esperti di oggi sono Anna Zattoni, direttore generale di Valore D. Buona domenica, Anna. Buongiorno e buona domenica a tutti. Buongiorno, Maria. E Donato Iacovone, che è amministratore delegato di Ernst & Young in Italia e managing partner dell'area mediterranea. Buona domenica, Iacovone, eccoci. Buongiorno e buona domenica anche a voi tutti. Allora, che significa, Zattoni, gestire generazioni con diverse prospettive su valori, ruoli, ambizioni? Perché quello che chiede la nostra ascoltatrice è semplicemente di non sentirsi fuori posto, di non avere questo senso di esclusione ora che i suoi colleghi, che hanno diviso con lei 30 anni di azienda, sono andati in pensione e lei è rimasta tra i pochi ad avere un'età diversa dai nuovi arrivati. È sicuramente una sfida che oggi molte aziende si trovano ad affrontare, che devo dire sto affrontando anch'io come Valore D, perché ci siamo di recente trasferiti in una nuova sede, Talent Garden, dove ci sono moltissimi giovani e start-up in ambito digitale, e quindi ci confrontiamo con un ambiente completamente nuovo, dove però abbiamo la possibilità di dialogare anche con questi giovani. Credo che l'esperienza di Vittoria sia un'esperienza condivisibile, perché oggi le 3 generazioni in azienda non solo hanno competenze tecniche diverse, i giovani entrano con il digitale un po' nel DNA e quindi hanno un modo di lavorare anche molto diverso dai più grandi, e dall'altra parte sicuramente la parte di valori e di motivazioni e di come interpretano il lavoro e quindi i modelli anche di gestione delle risorse umane sono diversi. E quindi è una sfida riuscire a capirsi, perché le prospettive attraverso le quali si arriva in azienda e si lavora sono molto diverse. Sono diverse, infatti, perché quando 30 anni fa noi siamo entrati nel mondo del lavoro, chi aveva 20 anni più di noi era visto come una persona da accoppiare, da cui imparare, al quale chiedere spesso i trucchi appunto per gestire meglio questa nuova fase della vita, che era quella del lavoro. E oggi, Iacovone, il tema è che spesso siamo noi baby boomers che dobbiamo chiedere ai ventenni di insegnarci delle cose, perché del mondo digitale non c'è dubbio, no, che siano loro i maestri. Come state affrontando voi questo tema del confronto generazionale? Quello del trasferimento di conoscenze tra generazioni, poi per noi è nel nostro DNA, in quanto su 4.500 persone circa che abbiamo in Italia, per fare l'esempio dell'Italia, circa il 70% di questi sono millennials. L'ultimo anno noi abbiamo assunto 1.150 persone, quindi che sono nuovi laureati, quindi per noi, e queste persone una volta che entrano ovviamente in un piano di formazione e in un piano, tra virgolette, di trasferimento di conoscenze, di comportamenti, di attitudini tra generazioni diverse. Quindi per noi è un po' più facile da un lato, perché comunque ci sono più generazioni che lavorano insieme, è più complicato perché i canali di comunicazione sono diversi e le modalità di comunicazione sono diverse. Quindi si può fare un esempio su come gestire, un esempio di come avete gestito un problema, un momento critico che avete risolto, in modo da farci capire come vi siete strutturati su questo, sul confronto generazionale? Ma l'esempio che mi viene in mente, per esempio, è quello di definire per le persone che entrano un percorso di sviluppo. Quindi abbiamo definito una carta dello sviluppo e ad ogni persona poi di fatto assegniamo un counselor che ha 4 anni di esperienza in più di chi entra. Quindi di fatto ognuno ha una persona che lo segue che ha 4 anni in più di lui. Quindi il nuovo laureato ha un signore che ne ha 4, chi ha 4 anni dentro magari ne ha uno che ha 8, chi ne ha 8, eccetera. Questa è un po' la modalità in cui seguiamo le persone. E questa persona ha il compito di rispetto al percorso di sviluppo, di interagire periodicamente, a volte quasi mensilmente se non anche di più, per cercare di capire rispetto alle progressioni che lui deve fare, ai cambiamenti che deve fare, ai comportamenti o alle competenze che deve sviluppare o ai talenti che deve sviluppare, dove lui rispetto al percorso. E quindi lì si fa un check, si fa un'analisi e in quel momento è un trasferimento, quei trick di cui parlava la signora, quel momento in cui ci si confronta e si lavora insieme, quelli sono i momenti che sono scritti in un accordo che si fa all'inizio con le persone, in una e specie di patto. È proprio obbligatorio parlarsi, comunicare. Sì, perché certo. Per noi il trasferimento di conoscenza è il modello di business che abbiamo, cioè noi funzioniamo se consentiamo questo dialogo. Se questo dialogo non c'è, noi certo. Non riusciamo a formare le nuove generazioni che entrano. Anna Zattoni, non tutti hanno questa metodologia virtuosa e per tornare appunto alla lettera di Vittoria, evidentemente nella sua azienda tutti sono un po' lasciati alla buona volontà dei singoli, cioè tu hai 53 anni Vittoria, gestisci di te il tuo rapporto con i nuovi arrivati e se ti senti sola perché non ci sono altri baby boomers cinquantenni attorno a te, sono fatti tuoi. In questi casi che si fa? Come singole persone, credo che, visto che alla fine Vittoria è un po' lasciata sola, se l'azienda non ha politiche attive di gestione o dell'aging, se si vuole parlare di aging, o dello scambio intergenerazionale, del collegamento intergenerazionale, secondo me quello che può fare Vittoria è in realtà mettersi a disposizione dei più giovani con le proprie competenze, quindi provare a vedere se all'esterno della propria azienda ci sono opportunità per diventare mentor di qualche giovane studente universitario o neo ingresso nel mondo del lavoro, o addirittura oggi c'è la grandissima sfida e opportunità per le aziende di gestire i periodi di apprendistato obbligatorio che la riforma Giannini prevede e che in effetti potrebbero proprio far leva sul bacino di competenze che queste persone senior hanno nell'organizzazione per creare questo ponte scuola-lavoro che è fondamentale. Per ridurre la disoccupazione giovanile. Sarebbe importante che non andasse sprecato. Io credo moltissimo nello scambio aziende e mondo della scuola e spero proprio che cominci, con tutte le difficoltà del caso, come sempre all'inizio, ma che cominci ad essere efficace. Valore D ha creato proprio questa possibilità di scambio, no? Tra persone, anche amministratori delegato, donne di esperienza e giovani che da loro apprendono. Brevemente, possiamo fare una sintesi di com'è andata questa esperienza? Questa è l'esperienza del progetto Generazioni, che è un progetto che ha visto delle donne senior che hanno partecipato al percorso di In the Boardroom, un percorso di formazione che abbiamo fatto con GE Capital e hanno fatto da mentor a giovani studenti universitari, ragazzi e ragazze di 6 atenei. Allora, sicuramente è stato un percorso bellissimo, sia per il mentor che per i mentee. I mentee hanno avuto il grande beneficio di avere una guida all'ingresso nel mondo del lavoro, di avere un aiuto pratico dalla scrittura del CV, ad avere invece avuto un aiuto di orientamento su quale percorso seguire, quali sono le tue attitudini e dove le puoi valorizzare al meglio. Le mentor hanno avuto l'opportunità di restituire, che credo che sia una cosa bellissima e che ti dà tante energie e tanta carica. E poi sì, e ti fa stare anche meglio con te stessa, perché quando arrivi a un certo punto, no, della carriera, di quello che hai imparato, un po' quello che dice Vittoria nella sua lettera, che dice: mi piacerebbe trasmettere un po' di quello che ho imparato ai miei colleghi giovani trentenni. L'importante è farlo nel modo giusto. Ecco, vorrei chiedere a Iacovone, proprio in chiusura, qual è il modo giusto per trasferire quel che si sa a un collega trentenne, senza farlo sentire appunto vieni qui ragazzino che ti spiego la vita, che magari 30 anni fa, quando io ho cominciato a lavorare, era una cosa che si faceva, ma oggi forse non si fa più. Che consigli dare? Se mi posso permettere, intanto consiglierei un film comunque che è uscito l'anno scorso e si chiama Lo stagista inaspettato, è di Intern, in cui questo stagista inaspettato è Robert De Niro, che interpreta il ruolo di un settantenne che viene messo a fianco, diciamo, assistente a una persona che ha fatto una startup di successo, che poi è Hathaway. E devo dire che il messaggio che viene fuori da questo film è molto interessante, perché all'inizio c'è una grandissima diffidenza generazionale tra i due, perfino da come parlano, da come sono vestiti, e poi invece nasce un grande dialogo e un grande progetto che alla fine lo fanno insieme, in cui ognuno beneficia, diciamo, dell'altra persona. Ed è un, secondo me, è anche un segnale come stia cambiando in realtà. Cioè, nel momento in cui c'erano solo, si pensava che solo i giovani potessero cambiare il mondo, eccetera, il che è così, ma si riscopre che in realtà lo si può fare meglio se si beneficia delle esperienze delle altre persone. Quindi questo, secondo me, è il punto chiave: convincere sia i giovani e sia ovviamente le persone con più esperienza che possono lavorare insieme e creare un valore insieme. Nessuno dei due ha la verità in tasca, questo è il punto, no? Bisogna avere un po' di umiltà nell'essere dei cinquantenni che imparano, non aver paura, no? Di dire questa cosa non la so, e però il trentenne deve avere altrettanta umiltà. Credo che sia un gioco di, no, di riconoscimenti dei propri limiti, no? Assolutamente sì. Una cosa che aiuta molto, diciamo una modalità che aiuta molto, che ha aiutato anche me, intanto a non prendersi troppo sul serio quando si è, diciamo, sul serio quando si è nominati, è quello che appena uno di noi viene nominato in azienda in qualsiasi ruolo deve indicare un chi può succedergli, quindi un succession plan si chiama così in inglese, quindi si identifica chi ti può sostituire domani mattina, chi ha 3 anni e chi ha 5 anni. Ora, chi ti può sostituire domani mattina è poco interessante, ma chi ti può sostituire a 5 anni invece è molto interessante, perché a quel punto tu devi individuare tra i giovani e aprire un dialogo, e quindi una sorta di counselor, cercando di capire lui, per prendere il tuo posto, quali sono le capacità che ha già sviluppato e quelle che deve sviluppare. E lì nasce un dialogo e anche una formazione, certo, ovviamente, una condivisione. È un bel sistema che noi però in Italia non applichiamo. Bene, io vi ringrazio molto per essere stati con noi. Credo che sarà interessante seguire, Anna Zattoni, quel che ci dirà adesso, proprio subito dopo, la nostra mentee che questa settimana abbiamo ospite, Chiara Lucano, che ha fatto appunto una bella esperienza nel progetto Generazioni lanciato da Valore D e da GE Capital. Quindi grazie al direttore generale di Valore D, Anna Zattoni, grazie a Donato Iacovone per essere stati con noi, e buona domenica a entrambi. Grazie, a presto. Buona domenica. Grazie. A presto. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta Nessuna è perfetta. Generazioni. tema, lo sapete, di questa domenica è la convivenza tra diverse generazioni in azienda ed è il tema che affrontiamo questa volta non con la nostra consueta, il nostro consueto appuntamento con il nostro coach o la nostra coach, ma direttamente con una ventenne, con una millennial, perché la lettera che abbiamo ricevuto da Vittoria ci dava il punto di vista di una cinquantenne che si sente un po' sola perché sono cambiate tutte le facce in azienda, ci sono tutti questi trentenni, ventenni che sembrano non aver bisogno della sua esperienza. E allora sentiamo invece che cosa pensa di questo una ventenne. Benvenuta, buona domenica, Chiara Lucano, 25 anni, laureata in economia in Bocconi pochissimo tempo fa e sta svolgendo già uno stage nel Dipartimento Studi Economici di Sace. Buona domenica, Chiara. Buona domenica a voi. Allora, Chiara è stata la mentee di Roberta Marracino, che ricorderete è stata nostra ospite qui a Nessuna è Perfetta, il direttore delle comunicazioni e delle relazioni istituzionali di Sace. Cosa ha imparato nello scambio appunto tra generazioni? Lo scambio che ho avuto con Roberta è stato veramente una fortuna dal mio punto di vista ed è arrivato anche in un momento particolare, cioè nel momento in cui mi trovavo ad interfacciarmi per la prima volta, ancora prima di adesso, con il mondo del lavoro, ovvero stavo finendo l'università e stavo cercando uno stage che mi serviva per completare il mio percorso accademico. Come l'hai trovato? Questo l'ho trovato, diciamo, praticamente, ovviamente cercando quali sono le varie opportunità che offre il mercato, però prima di arrivare a questo punto quello per cui l'aiuto di Roberta è stato veramente molto prezioso è stata la riflessione che mi ha fatto fare su me stessa, su quali fossero i miei obiettivi sia di breve periodo, quindi quelli molto pratici, ovvero la necessità appunto di trovarmi uno stage, ma anche quelli di lungo termine, come voglio realizzarmi, quali sono i miei interessi, quali sono le mie aspirazioni e non lo nego, a darmi probabilmente quel po' di fiducia in più in me stessa che mi mancava. Quindi aver avuto la possibilità di confrontarmi con una persona estranea, perché prima di incontrarla all'interno del progetto Generazione ovviamente non avevo mai avuto modo di conoscerla, sì, e vedere appunto che i suoi suggerimenti e ciò che lei mi condivideva con me poteva appunto aumentare la fiducia in me stessa e la, certo, fiducia in andare incontro al mondo del lavoro. E questo è stato molto importante. Lo scambio che avviene tra una persona di esperienza e una giovane laureata come nel progetto Generazioni promosso da Valore D ha anche dei tempi stretti, no? Perché non è una cosa che possa durare a lungo. Qual è il consiglio? Quanto è durato intanto? Quanto tempo è durato questo rapporto tra mentor e mentee? Il programma è un programma semestrale, quindi ecco, 6 mesi. Esatto. Qual è il consiglio più importante che hai ricevuto? Quello di essere molto informata su quello che c'è all'esterno, sì, e di essere molto consapevole di quello che invece c'è all'interno, quindi dentro di me. E questo binomio è sicuramente, diciamo, importante per poi avere successo nel porsi, nel vendersi, nell'integrarsi nel mercato del lavoro. Senti, è stata una bella idea quella di sentire il punto di vista di una ventenne. Ora ti riferisco brevemente cosa dice la cinquantenne che ci ha scritto invece Vittoria, che è circondata da volti nuovi, lei che ha lavorato per 30 anni nella stessa azienda con gli stessi colleghi, sono cresciuti insieme, si sente un po' a disagio e ha l'impressione che i suoi giovani colleghi non la considerino. Può succedere questo? E ai tuoi giovani colleghi in questo caso che consiglio daresti? Il consiglio che do è quello di non avere paura di interfacciarsi con persone più grandi, con molta più esperienza, perché quello che hanno da dare, da insegnare è veramente molto molto prezioso. perché forse si esce dall'università pensando di sapere e saper fare tante cose, che è vero, ma ce ne sono veramente moltissime altre da imparare sul mondo del lavoro e sul campo. Quindi avere la possibilità di creare uno scambio reciproco con chi lavora già nell'azienda è molto importante per poter crescere e avere successo all'interno dell'azienda, ma non solo. Generazioni bloccate in partenza, chiuse tra il passato che non vuole andarsene, il nuovo che avanza. Grazie a Chiara Lucano, Millennials e Mentee, e buona domenica a lei e a voi che ci avete seguito. Grazie, buona domenica. Buona domenica.